Fai partire disco, t'ammonisco. Scrivermi 3 3 3 6 4 6 7 6 6 2. Oggi già a piccia sta radio t'arriva in destro alle ore 18 suona il maestro. Un uomo scuro, scontroso e un po' giocondo. Musicista, sognatore, imprenditore e vagabondo. Un piccolo paese fuori dal mondo. Gigi D'Agostino, una grande famiglia danzante. Gigi, sono Miki 84. Ti scrivo dalla Valsesia. Sono un tuo fan da ormai 10 anni. La mia famiglia ti adora. Mamma, papà, fratello 15enne e sorelline di 5 e 7 anni che impazziscono per la tua musica. La mia vita scorre tutti i giorni sulle ali della tua musica. Odiami se sei guarda invece noi. Spettacolo, frate. Semplicemente per Oriana. Per Oriana. Cammino di Gigi D'Agostino. Musica che unisce. Cammino e Gigi D'Agostino vi aspettano a colpi di martello questo sabato 18 novembre alla discoteca Roncaccio, Bizzarrone, Como, Como, Como, Como, Como, Como, Como, Como, Como. Ci fermiamo quel minimo. Riprendiamo il cammino tra qualche minuto. Si riparte. Questo è il cammino di Gigi D'Agostino. Gigi D'Agostino, musical mental. Un DJ con le palle. È vero, è vero. Musical, cal, cal, cal, cal, cal, cal, cal, cal, cal, cal, mental. Un DJ con le palle. Sono un picco

Sono Diana da Torino. Ti aspettiamo tutti il 19 alla gara. Specialmente mia mamma, che è pazza di te. Sì, sì. Il cammino di Gigi D'Agostino è a vostra disposizione. Potete far sentire la vostra voce. 333-64-67-662. Vota. Volevo fare gli auguri a mio cugino Andrea, che oggi compie 20 anni. Mi farebbe piacere ascoltare un brano da Tecnofest, visto che fu proprio lui a farmi conoscere questa stupenda raccolta. Un saluto anche alla Gigi D'Agostino's Family. Diga. Sono Jennifer di Ravenna. Volevo dedicare Souvenir a Cosimo e dirgli che lo amo. La prima volta che ho fatto l'amore, ascoltavo la tua musica. Grazie Gigi, perché in tua compagnia ho passato momenti stupendi. Luci, ti amo. Ale da Torino. Il cammino di Gigi D'Agostino. Musica che unisce. Se la mia richiesta è quella di ascoltare Natale. Sai, ci stiamo avvicinando e visto che l'adoro, Anna. Il cammino di Gigi D'Agostino.

Sono Daniele da Torino. Vorrei dedicare uno dei tuoi capolavori a Rossella, Il mio amore impossibile. L'amore è come la fede, si sente ma non si vede, né si compra e né si vende. Mirko da Roma. We'll be right back. waiting for the world gone by. Ask me what I'm feeling deep inside. D'Agostino è una grande famiglia. Che meraviglia! Gigi D'Agostino ringrazia a tempo James da Severino, Valentina e DJ Andrea, Deborah da Lamezia Terme, Damiano da Brescia, Elisa e Ivan da Nizza, Jenny e Cristina da Cosenza, Susi da Bologna, Saretta di Torino. Ci sentiamo domani, grazie a tutti.